Bibbia Martini, primo libro delle cronache, 1 CR 7 posteri di Issacar, di Beniamin, di Neftali, di Manasse, di Efraim, e di Aser. Figliuoli di Issacar 4, Tola e Fua, Jasub, e Simeron. Figliuoli di Tola, Ozzi, e Rafaia, e Geriel, e Gemai, e Jebsem, e Samuel, capi di varie famiglie, e casate. Della stirpe di Tola furono contati a tempo di Davide, 22.600 uomini di sommo valore. Figliuolo di Ozzi, Israia, da cui nacque Michael, e Obadia, e Joel, e Jesia, tutti 5 principi. E venivano dietro ad essi delle loro consorterie, e famiglie, 36.000 uomini fortissimi addestrati al mestiero delle armi, però che avevano molte mogli, e figliuoli. Ed ec loro fratelli in tutta la casa di Issacar si contarono fino a 87.000 valorosissimi combattenti. Figliuoli di Beniamin 3, Bela, e Becor, e Jadiel. Figliuoli di Bela, Esbon, e Ozzi, e Oziel Gegerimut, e Urai, 5 capi di famiglie di uomini di sommo valore nelle battaglie, il numero dei quali fu di 22.034. Figliuoli di Becor, Zamira, e Joas, ed Eliezer, ed Elioenai, e Amri, e Gerimut, e Abia, e Anatot, e Almat. Tutti questi figliuoli di Becor. E furono contati nelle loro famiglie, le quali furono il ceppo di altri rami, 20.200 uomini valorosissimi in guerra. Figliuolo di Jadiel, Balan. Di Balan furono figliuoli, Jeus, e Beniamin, e Aod e Canana, e Zetan, e Tarsis, e Aizar. Tutti questi discendenti di Jadiel capi delle loro famiglie, nelle quali furono 17.200 uomini fortissimi in età militare. Sepam, e Apam figliuoli di Ir, e Asim figliuolo di Aer. Figliuolo di Neftali, Jeziel, e Guni, e Jezer, e Sellum, figliuoli di Baia. Figliuolo di Manasse, Esriel, e una soriana sua concubina partorì a Manasse Machir padre di Galad. Machir diede moglie a suoi figliuoli Appim, e Safan, ed ebbe una sorella per nome Macia. Il suo nipote fu nominato Salfad e Salfad ebbe delle figliuole. E Macia moglie di Machir partorì un figliuolo, al quale pose nome Fares, il quale ebbe un fratello chiamato Sares, del quale furono figliuoli Ulani, e Rech. Figliuolo di Ulam fu Badan, questi sono i figliuoli di Galad, figliuolo di Machir, figliuolo di Manasse. La sorella di lui regina partorì il bell'uomo, e Abiezer, e Mola. Figliuoli di Semida erano, Ain, e Sechem, e Lech, e Aniam. Figliuolo di Efraim, Sutala, Berg suo figliuolo. Taat suo figliuolo, Elada suo figliuolo, Taat suo figliuolo, Zabad suo figliuolo. Figliuolo di lui Sutala, e figliuoli di questo Ezer, ed Elad, ma gli abitanti del paese di Get li uccisero, perché erano andati ad occupare le loro possessioni. Ed Efraim padre loro li pianse per molto tempo, e i suoi fratelli andarono a racconsolarlo. E si accostò alla sua moglie, la quale concepì, e partorì un figliuolo, a cui pose nome Beria, perché egli era nato in mezzo alle afflizioni di sua casa. Figliuola di Efraim fu Sara, la quale fondò Beturon la superiore, e la inferiore, e Ozen Sara. E furono figliuoli di lui Rafa, e Risef, e Tale, da cui nacque Taan, il quale generò Ladan, di cui fu figliuolo Ammiud, il quale generò Elisama, da cui nacque Nun, il quale fu padre di Giosuè. Le loro possessioni e abitazioni furono Betel con le sue adiacenze, e Noran dalla parte di oriente, e Gazer con le sue adiacenze da occidente, e parimente Sichem con le sue adiacenze fino ad Aza, comprese le sue adiacenze. Ebbero anche in vicinanza dei figliuoli di Manasse Betsan con le sue adiacenze, Tanak con le sue adiacenze, Mageddo, Edor con le loro adiacenze, In questi luoghi abitarono i figliuoli di Giuseppe, figliuolo di Israel. Figliuoli di Aser, Gemma, e Yeshua, e Gesui, e Baria, e Sara loro sorella. Figliuoli di Baria, Eber, e Milchiel, egli è padre di Barsait. Eber generò Geflat, e Somer, e Otan, e sua loro sorella. Figliuoli di Geflat, Fosec, e Camal, e Asot, questi sono i figliuoli di Geflat. Figliuoli di Somer, Ai, e Roaga, e Aba, e Aram. I figliuoli di Elem suo fratello Sufa, e Gemna, e Selles, e Amai. Figliuoli di Sufa, Sue, Arnafer, e Sual, e Beri, e Yainra, Bozor, e Od, e Samma, e Salusa, e Getran, e Bera. Figliuoli di Jeter, Gefone, e Fasfa, e Ara. Figliuoli di Olla, Are, e Aniel, e Resia. Tutti questi discendenti di Aser, capi di famiglie, condottieri primari, eletti, e di sommo valore, il numero di quelli che erano in età militare fu di 26.000. Note, 7,3, tutti 5 principi. 5 sono, compreso il padre Israia. 7,5, ed ec loro fratelli e ci uomini della stessa tribù e dello stesso sangue. 7,6, figliuoli di Beniamin 3, e ci 10 erano i figliuoli di Beniamin, 5 soli sono contati, capitolo 8. I, numero 26esimo, forse perché questi soli ebber discendenza. I 5 poi si riducono qui a 3, perché di 2 figliuoli di Beniamin probabilmente perirono tutti i posteri nella guerra fatta a Beniamin dalle altre tribù, Giud. 20 Onde ai tempi di Davide non si contavano se non 3 rami di questa tribù. 7,13 Figliuoli di Baia. Vuol dire, Dan e Niftali furono figliuoli di Giacobbe nati a lui da Baia sua serva. Non si è fatta però veruna menzione di Dan, forse perché egli non ebbe altro figliuolo, né altro principe di sua discendenza, se non Usim, o Cusim. 7,14 Figliuolo di Manasse, Esriel. Esriel è detto figliuolo, cioè pronipote di Manasse, perché egli era figliuolo di Machir figliuolo di Galad figliuolo di Manasse. Così alcuni accordano questo luogo con quello, che sia nel libro dei Numeri, dove il solo figliuolo di Manasse è Machir, numero 26,9. 7,15 Diede moglie a suoi figliuoli Appim e Safan. Vuolsi che questi siano quegli stessi figliuoli di Ir della tribù di Beniamin nominati, V12, i quali fossero adottati da Machir. Ebbe una sorella per nome Maacha. Posta questa lezione, bisogna dire che la sorella e la moglie di Machir ebbero lo stesso nome, lo che non è niente incredibile. Il suo nipote fu nominato Salfad. Salfad fu figliuolo di Aper figliuolo di Galad figliuolo di Machir. 7,17 Badan. Credesi comunemente che i sia il famoso Jair giudice di Israele. Giud. X 3 vedi 1. Regione 12. 2,7,18 La sorella di lui regina partorì il bell'uomo. Ovvero, ritenendo i nomi ebrei, si tradurrà, la sua sorella Malchet partorì Ishod. 7,20 Figliuolo di Efraim, Sutala, Berdeci è molto probabile il sentimento di quei goli interpreti, i quali credono che tutti quelli che sono qui nominati fino al versetto 26 siano figlioli di Efraim nel senso più stretto. 7,21 Gli abitanti del paese di Ghet li uccisero, perché erano andati eci. Sembra certo che questo fatto dei riportarsi al tempo in cui gli ebrei erano tuttora in Egitto, per la qualcosa si può intendere, che quello di Ghet facessero qualche scorreria nell'Egitto, e che i figliuoli di Efraim, i quali vollero opporsi a che masnadieri restassero uccisi nella mischia. Non abbiamo veruna altro lume di questo avvenimento nelle scritture.